Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Scelto tra 780 progetti incentrati sull'innovazione in agricoltura e allevamento, il progetto NIM Agrimed ha vinto il premio internazionale assegnato a Expo 2015 dalla piattaforma tecnologica europea per l'agricoltura biologica TP Organics, questo nell'ambito di un concorso Feeding Knowledge dedicato alle buone pratiche per la sicurezza alimentare e l'agricoltura sostenibile. Questo progetto riguarda lo sviluppo della Neem Cake, un fertilizzante biologico a basso costo con proprietà di insetticida naturale, adatto per applicazioni in agricoltura e zootecnia biologiche. E questo Neem Cake si ottiene dagli scarti di lavorazione dell'albero di neem, che è una specie originaria di India e Birmania, ma che ormai è diffusa in molti climi tropicali, dall'Africa al Sud America, dove viene coltivata per ricavarne un olio che ha vari utilizzi, comunque non alimentari. Ne parliamo con la dottoressa Susanna Mariani, ricercatrice dell'UTAGRI, laboratorio dedicato all'innovazione agroindustriale dell'Enea, che è stato un po' al centro di questa ricerca. Buonasera Mariani. Buonasera dottor Melis. Allora, intanto, che cos'è, detto un po' meglio, questa Neem Cake e come viene già utilizzata oggi? Allora, il Neem Cake è lo scarto di lavorazione del processo industriale che estrae dai semi di neem olio di neem e azadiractina. Il Neem Cake rappresenta circa il 70-80% del volume del processo. È un prodotto di basso costo, perché infatti è uno scarto industriale, e viene attualmente commercializzato solo come fertilizzante azotato. D'accordo. Però non è la percentuale di azoto presente a determinare l'efficacia dei complessi processi di stimolazione della biodiversità microbica del terreno, per cui della fertilità del terreno, che induce questo prodotto. Ah, ok. Non è una semplice fertilizzazione, certo. È un prodotto che ha delle attività molto più complesse e anche attività insetticida e nematocida. Ecco, quali sono i problemi a questo punto che bisogna superare per poter sfruttare meglio questo Neem Cake? Dunque, le difficoltà sono rappresentate fondamentalmente dal fatto che stiamo parlando di un prodotto biologico, di un prodotto vegetale, di uno scarto vegetale, per cui questo prodotto ha una grande variabilità. Ok, cioè la concentrazione per esempio di alcune sostanze molto importanti è molto variabile, no? Di volta in volta, sì, non ci si può far conto. Vi è una variabilità di composizione, come lei ha ben detto. E noi in questo progetto abbiamo utilizzato una tecnologia che si chiama HPTLC, che permette di avere un velocemente, immediatamente, come un fingerprint del prodotto, leggibile visivamente. Un'impronta digitale, cioè quindi insomma l'insieme delle sue caratteristiche, come fosse un po' l'etichetta che leggiamo da consumatori. Bravissimo. E in tal modo cerchiamo di caratterizzare il prodotto in modo che chi lo acquista e chi lo utilizza sappia se ha davanti a sé un buon prodotto. D'accordo, quindi è più una questione, diciamo, un approccio simile a quello della tracciabilità. No, non si tratta di trovare magari qualche processo chimico per tirar fuori dei principi attivi, si tratta di tracciare e documentare bene le proprietà delle varie partite di questa Neem Cake alla fine. Certo, certo, perché questo Neem Cake, come le dicevo, può avere un importantissimo utilizzo per quanto riguarda la fertilizzazione e la difesa da insetti del terreno e dai nematodi del terreno. So che è stato utilizzato per difendere delle pecore, se non sbaglio, da un virus che si chiama virus della lingua blu, è possibile? Sì, noi abbiamo avuto un progetto finanziato dalla Regione Lazio nel 2006-2008, proprio per sviluppare, per verificare le capacità del Neem Cake di bloccare la riproduzione delle larve del Culicoides simicola, che è l'insetto vettore del virus della febbre catarrale degli ovini, in campo. E abbiamo visto che questo prodotto ha un'attività che è paragonabile a quella dell'organo fosforico, dell'insetticida organo fosforico più tossico. Quindi l'agrofarmaco più tossico che c'era in circolazione, niente male, insomma. Senta, ma perché è così importante lavorare su questa cultivar, come oserei quasi dire, questa pianta di neem? Perché a livello mondiale la pianta di neem viene riconosciuto come l'albero del futuro. Ah, addirittura. In quanto è un albero che ha tantissime proprietà, in India viene chiamato anche la farmacia ambulante del villaggio, perché ogni parte di questo albero ha qualche funzione, certo. Ha una funzione. E dal momento che l'albero è stato importato in tutte le aree tropicali e subtropicali del pianeta, abbiamo a disposizione quantitativi enormi di semi di neem e quindi anche di neem cake. Di neem cake, che potrebbe essere valorizzata. Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Anche per stasera è tutto, appuntamento a domani, buona serata. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.